vecchi tempi. Ogni tanto fa bene ricordare, dai. Salutatemi Battista quando rientra. Ciao Giulio, stammi bene, buon proseguo. Ciao Gianni, alla prossima, statemi bene, buon proseguo. Ci sentiamo, ciao ciao. Ok, ciao Tony, grazie a te per la chiacchierata, per me è stato piacevole, vada, anche a me mi piacciono questi discorsi, magari a qualcuno possono anche non piacere, però diciamo che anche lui se volesse potrebbe partecipare quando si fanno certi discorsi al nostro question, anche non è detto che sia per forza obbligatorio continuare su questa linea, si può anche cambiare argomento, ci mancherebbe altro, però visto e considerato che un po' tutti eravamo interessati, l'abbiamo fatto e basta, e ci siamo divertiti, almeno io penso di sì, anche penso che sia successo anche per Gianni e in particolar modo anche per Bacchisio, che ha più o meno la mia età. Avanti Gianni. Hey, ciao Tonino, dai, alle prossime, grazie per il contributo. E ognuno ci mette il suo. E anche io giusto faccio un paio di passaggi che mi organizzo qualcosa da mettere in mezzo ai denti, dai, cioè mi mangio qualcosina, qualcosa di leggero e poi niente, quindi un altro paio di passaggi e poi saluto anch'io. Avanti giù. Ciao ciao, chiudo. Arrivito. Ok, dai, no, facciamo riprendere a Bacchisio, così saluta Tonino. Vai Bacchi. Ciao Tonino, chiudendo stai, ci sentiamo domani allora. Buona cena, buon tutto, a domani. Avanti, chi c'è ancora? Gianni. Cappa di nuovo, ciao Bacchisio, buon proseguo, ci sentiamo, aspetto sempre il finalino io, non me ne vado via come molte persone. Ciao ciao, buona continuazione, ciao ciao, quindi già. Ok, ciao ancora a Tony, alle prossime, a domani se coincide magari, dai. Sì, e beh sì, stavamo facendo un lungo coesio stasera, ma chi appunto mi sono permesso di dire che era un coesio che a te interessava anche, avete considerato che siamo più o meno della stessa generazione. Niente, non so se mi sono sbagliato nel dire questo, ma suppongo di no. Ho voluto interpretare anche il tuo modo di pensare, che è simile al mio. Bene, bene, avanti Bacchi, rispondimi. Giusto, chiaro. Aspetta che ci doveva essere un trascinato uno che mi ha chiamato, doveva essere qua in fila. Avanti Tore. Buonasera anche a voi, ciao Giulio, ciao Bacchisio, ciao Tonino e ciao Gianni. Ok, riprendo io allora, ciao Tore, ben entrato, ben ascoltato su questa canaletta, è un piacere ascoltarti, dai. Sì, c'è Gianni anche che ti mando avanti subito per i saluti, vai Gianni. Ciao Tore, buonasera, ben ascoltato e ben entrato qua. Io come ho detto nel passaggio poc'anzi, faccio due altri passaggi veloci e poi mi organizzo qualcosa da mangiare, dai, e quindi niente, ti rilascio il mic, vai tu. Sì, ok, no, ma cosa te ne fotte di magnata gira? A mangiare così almeno dimagrisci, tieni la linea, tieni. Vero, signor Bacchi? Ehi, alla linea di Londreno. Già, ma tutti a mangiare sto tornando, aspetta che è presto. E poi, adesso perché se... Lo sai, dove? È stato battezzato Gianni, il re degli uccelli. A me pare che non sia Edu, però, quello degli uccelli. Vero già? Mi sa di sì. Mi sa che ha sbagliato bersaglio, Bacchisio. Oioia. Va bene. No, meglio mangiare adesso, che se mangio troppo tardi, poi a digerire ci vuole troppo lavoro, ci vuole. Ma che mangia un poco di bracca, si dice subito. Avanti giù. Evita, no, noi mangiamo bistecche, diglielo già, noi mangiamo bistecche, niente fracca, fracca se mangiamo una volta, tipo lattughe, lui ha, anche quei tempi di allora, quante erano buone le lattughe, lì vicino dove ci sono oggi le stazioni dei Pullman, lì c'erano gli urti, andavamo a prendere le lattughe, arriviamo a Santa Maria, sotto la fontanella, una sciacquatina, quando arrivi a casa abbiamo mangiato 3-4 fonde di lattuca, come niente, vabbè, altri tempi, c'era fame allora, va bene così, riprendi Tore. Lo riprende e si è perso in cammino, ehi, a chi giù, tanto per la Rosini, normale era, quella la fame però. Mara era la fame, questo era il problema. Si basava tutto, si basava, non ce n'erano dei problemi allora. E soprattutto vizi non avevamo, perché intanto non ce n'erano in abbondanza di cose da mangiare, per cui ci dovevamo accontentare. E non siamo molti, abbiamo raggiunto una certa età e dunque anche se abbiamo mangiato usili, pabanzoro e la tucca. Tore, sei rientrato? Sono qua. Quei tempi erano belli, una volta, ma è tutto già andato. Appunto, ma siamo tutti quanti, siamo diventati tutti ricchi. E dunque abbiamo abbondanza di tutto e di più anche di più dell'abbondanza abbiamo. Va bene, dai, signori belli, però io vi devo lasciare, perché è arrivata l'ora per me che mi devo buttare dentro la vasca da bagno, dai. Ci sentiamo, se no dopo cena, se no è troppo tardi e non voglio fare la doccia dopo cena, la voglio fare adesso, mezz'ora prima della cena. Pertanto vi ringrazio per la chiacchierata, è stato molto bello. Ciao Bacchisio, grazie per la chiacchierata, ciao Gianni se sei ancora all'ascolto, grazie anche a te, è stata una bellissima serata al baracchino. Ciao Tore, grazie anche a te per essere entrato, anche se sei arrivato da un pochino, però ci fa piacere almeno per i saluti. Ciao Tore, riprendi, ascolta il finalino e dopodiché io chiudo. Ok, grazie a tutti e dopo il finalino chiudo. Vai Tore. Ok, ciao Giulio, ci risentiamo alle prossime. Buona carica e tutto quanto, ok, vai Bacchi. Grazie, mi chiamo Giulio, ciao Giulio, buona serata, buon tutto. A domani se ci concili, se la chiacchieriamo ancora, perché stasera è stata una bellissima serata. Proprio svagato al 100%. Andava bene meglio, dicevo qua. Gianni, ci sei ancora? Sì, entro dai, a salutarvi. Un salutone a Giulio, dai. Una stretta di mano anche a voi, grazie, ciao Tore, ciao Bacchisio, dai, grazie per la chiacchierata, ci risentiamo appena possibile, ok? Buona carica quando la fate e niente, dai, alla prossima, buona serata a tutti. Ok Gianni, ci risentiamo, alle prossime, buona carica, la devi fare adesso. Ci risentiamo alle prossime, ok, vai Bacchi. Grazie, noi siamo Gianni, ciao Gianni, buona serata, buon QRT, sentiamo domani, se tutto coincide, se no lo facciamo coincidere e sentiamo lo stesso, vai, vedi se c'è Marino Tore. Attenzione Marino se c'è all'ascolto, ha detto che no signor Bacchi. Missione è andato. Deve darsi una portante, che arriva un segnale di 7-8, però da lì non si sposta. A noi non si fa di nulla, non ti preoccupare, già non fa nulla a noi. No, non mi va bene. E si fa di... Cos'hai detto Bacchi? Lo sai se dice qualcosa, quanto è facile girare la manopolina, non ho un'idea. Ma direbbe che deve essere anch'io, ma non lo sai che è basso però. Vabbè. Va benissimo. Che basso perché l'ha scartato anche il governo, non c'aveva l'altezza. Infatti, non è all'altezza no di arrivare dove siamo noi. Questo era basso. Scarto, quando uno non trova superava i 50, state in casa. Infatti, deve superare almeno 1,70 m, 1,80 m, ma non ci arriva così, troppo basso. Hai trovato male, peggio per te. Sarà così, signor Bacchi, pazienza. Così lo facciamo. E beh, dove è qui? Oggi già si è assuriato già. Comandante, ci ho guardato in banca, io mi ha svegliato un po' credo di giorni, quindi... Sono andato a farmi funzionare un portatile e non accendi. È caro, PMR? No, il portatile, il computer portatile. Si accende normalmente e si chiuda. Quindi no, non funziona. Non so cosa fare a quello lì. Il bongomano. gira, era un buon animale, ha già te giù, un vicio ci ha bloccato. C'è un annino, per riavviarlo. E così per un paio di volte mi ha fatto, poi è partito bene. Ma c'è qualche filo che fa massa, Oh, sicuramente qualche cosa troppo carica. E si bloccava. Adesso invece il grande sta funzionando bene. L'altro me l'ho messo a posto con il mio fratello e ci voleva una batteria piatta, gli devo mettere quella da 4,5 volte. E quelle un po' grandette, hai capito? Quelle batterie un po' grandette ci vanno. C'hanno le lamelle? No, quelle non ne hanno lamelle. È grandetta ma non ne hanno lamelle. E io voglio entrare avanti. Ehi, domani a Baindo ci riesce a ciappalla in un negozio buro. Ciao, rimane così, c'era Boniello. Devo la puoi trovare in via Montello, quello che vende i cosi per gli allarmi. Fa l'albero di macchina, l'albero di casa e anche il parabola. No, ce li ha anche il negozio, ce li ha. Ho preso un'altra volta lì, l'ho presa per il mio. Ma ce l'ha anche il negozio nel supermercato. Ma le batterie anche quello lì. Allora sei a posto. Allora non fai strada, quando lo fa la spesa fissa tutto. Segnati il dito, legati con un pezzo di filo per ricordartelo. Infatti. A ricordare già me lo ricordo. Poi ci sono andato con Manzano, mi ha già dimenticato. E va bene, non fa niente tanto, presso a nonnaggio. Che? Nonna Gana devi darsi nonna Gana. E vabbè. Fa Piacenza, Piacenza. E che dove fare? No, stasera non ho fatto nulla, proprio non mi ha dato nulla. Volevo sistemare un microfono, cambiare la cassa di quello lì e non andiamo a Puglia, facciamo dromme. Andiamo via, andiamo. Ehi, vabbè signor Bacchi, vuol dire che c'era così oggi. Ci vuole poco, togliere 4 viti, fare 2 saldature proprio stai andando, però ho fatto. E quando non viene cana, viene cana. E cosa vuoi fare? Oddio, oggi non è di nutra, da Venegana. No, la settimana sta finendo e dunque i giorni stanno passando e noi ci stiamo invecchiando. Sì, un 15 di più l'avemmo. Io so, di arrabbiaduri. Allora. E così è. Andiamo piano piano, so, vedrai se risolve il problema. Domani è l'altro giorno, la apriamo, lo guardiamo bracciare, cambiamo la cappa, se funziona funziona, se no è un po' che la batte. Infatti così, se no se lo la batte è sempre andendo. Quando c'è la cappa ci devo dire cambio. E me lo dici così, chietta? Non servono un'acqua, non servono un'acqua questa roba che mandano da fuori. Quelli avevo preso l'altra volta, era una bomba. Questa è nulla, questa è solda. No, quelle sono bacchi, capsule per coso, per microfono da palmo. Ecco cos'è, sono capsule per microfono da palmo. Quelle capsule per coso? Quelle per... come si chiama? Microfono da tavolo, sono piccole. Chiamano questa volta io, le ho ordinate, grandi così, le ho ordinate. Questa volta le ho letto, scritto, una cosa per il microfono da tavolo. E invece no, ha venuto buon destra. Cercavo una volta finito, non so cosa fare. Per il microfono a tavolo costavano di più, costavano 9,90 euro. Ma che sono pagati 9,90 euro. Ma chi, quelle della ZG, quelle lì sono piccole e vanno bene per l'MP4 e l'MP5. Infatti. infatti le cutoline funzionavano bene, però spariscono sempre. Lo so che spariscono. D'accordo, sì, spariscono, sempre spariscono. Dunque, non c'è nulla a fare. Adesso si capisce quale volte urgere, ne riordino un altro paio. Perché ordinare solo due capsule mi fa ridere, mi fa. Infatti, dovete poni in mezzo dei PL o qualche altra cosa dovresti mettere in mezzo? Le PL ce l'ho sempre. Qualche barilotto, qualche marasucco, qualche banana, la cammela. Siete buoni in mezzo, a che dozzi, buru? De mare, fase mare, meglio frutta e verdura. E così lo vediamo, siccome questo arriva dal Regno Unito, non so, da Sassari, da Bortuzzolo, da Cagliari, dal Regno Unito, 9 giorni di trasporto. Sta giù compreso, che arriva dal Regno Unito. Ma ti va in baga per il trasporto, ti va in baga. Caro. Ma per dire caro no, spero praticamente non vivo di trasporto. Dunque è costato più il pezzo che il trasporto. Quello sì. Io li avevo viste sul coso che ce li aveva. Mi pare in media globo deve venire via quelle capsule che stai cercando tu, quelle piccole. Sì, sono io le ho trovate su CB, insieme. E CB le ho trovate, però non l'IB proprio. Un'altra società affiliata, Giri, sono arrivato lì. E c'erano, ho letto, adesso così vanno bene. E ordino, Oia, dice va bene, mandato. Se ti vedi di non ti mandava un cartoncino solo. Certo. E così no. Molte volte fa buttano un demone in mondetta di buone. Ma. Ah, vai a vedere, a prossima buccia. A vedere se riesci a ciapparli. Sì, guarda che ci sono. Ci vuoi bene e poi ti sposti. Adesso non mi ricordo il sito qual era. Era piccolino. No, c'è di più, quello che aveva, le capsule. Barilotti, PL, banane, tutto quello che ti serve per l'elettronica. Lo stagno. Ehi, così sì, bisogna andare a Bai Davide. Quelli che ho, i microfoni che ho da palmo, ne ho due, diciamo, le capsule originali sue grandi. Ne ho due di quei microfoni, hanno due fogli di caffettiera. No, quelli da palmo che ho io, quello che ho dall'altro ente che ha l'originale sua, ed è grande la capsula. In ceramica proprio l'originale sua proprio per questi apparati. E poi c'ho quella che c'è, cioè quella grande con il trasformatorino piccolino. Tutti due stanno intorno ai 5,5-6 miliardi, una in ceramica, quella in ceramica ce l'ha in molti modi. Ma chi è così? Sono di mani per il microfono da palmo, non ne va bene più, fa bene di minore, dava sopponendo. Ma più buono, ma più buono. Ehi, già non ha giù di idratarli per un momento, dici. Per un momento rimane nei venni. Un po' di roba più di fermi, per bloccarla. L'originale di questo apparato qua, del presidente, lo stesso è grande. Originale, grande. Prima erano tutti fuori di misura. Prima erano grandi, erano. Ma invece non veni giù più. Quello del facce. Ho un microfono con la carriera e portarlo. Certo. Però funzionavano bene. Funzionavano tuttora. Funziona tuttora ancora. Certo. Cioè, c'è buono di micro di sempre di voi, c'è perché dei microfoni con la capsula piccolina e non funzionano. L'ho comprato a Torino, un microfono, 29 euro, con la capsula piccolina, non funzionava. L'ho tagliata, fatta, perché è incollata. E ne ho messo un'altra, e funziona. Oh, certo, è da un po' blu. Bisogna vedere pure come ti sono fatte queste capsule anche. Ne ho usato una, un microfono un'altra volta, del portatile. Dai presenti quelle capsule sono del portatile. Sono piccoline quelle sono. Quelle funzionano da un treno. Ma se è buono un portatile, non puoi facciamo un portatile no. Ma è un portatile che ho smontato, demolito, messo da una parte. E siamo questi così. Provando mi trovo questo a fare qui. Riesce a provarla. E funziona. È così sì. Ma per un momento a me già non me ne sirvi. Per il momento. C'ho quella per il ricambio di questo microfono da tavolo, ce l'ho. Io quando ordino il microfono, ordino anche le capsule di ricambio, ho tutto un viaggio. Ma chi? Non so se ce l'hanno quelle, il ricambio. Voglio vedere, bisogna sforzare, fargli la radiografia. Gli originali sue ci vogliono. Se no non andano. Tu posso andare, andiamo a Monte Roseto e secondo gli osso, ma voi come ti volano? Cata, una baraura e... una baraura e... E ti danno di casa esce. Anche così esce. Comunque io l'altro giorno, guardando, su eBay c'era come si può dire la cosa dell'MP4, la scheda. Nelle scatole quando le spediscono c'è lo schema all'interno, collegamenti, tutto sì. Solo che noi siamo un po' cacciolo, prima mettere un pezzo. No, oh, io non te la giù rampando, me la giù dentro no, che me la giù dentro. Mi ha giocato da pizzo. Non mi ricordo dove l'ho messo, poi tanto ci riesci da ciappallo. Guardando su eBay l'altro giorno, ho trovato una scheda di MP4, avevo trovato in vendita, una scheda. Bisogna sempre conservare, un canno a partire dalla roba. Non devi pensare, c'ho ancora, ripeto, le funzioni del patch 123A, e ha 40 rotti anni. Come io che ho lo schema dell'Intec che non funziona più ormai. Intec è il portatile? No, Intec è il 34 canali, che c'avevo sempre, quello lì. Di quello lì. Io là, la sto facendo. La sto vedendo, non tengo punto di vista nei miei piedi. 34 è sera. Signor Bacchi, cosa stavi dicendo che mi ha suonato il telefono? Dove era? 34S? No, quello che avevo io era 34 normali era. Lo so io, l'ho fatto a Mario, era 34S, Intec, 34 canali. E c'avevo anche il PM. E poi c'era anche il PA e il coso, PA e poi non c'era. Al visto. No, quello che c'avevo, che c'ho io, quello lì era normale, AM, FM, coso, basta, non c'avevo un altro tasto, io non so cosa è, nei canali alti saliva. Però boh, è qualcosa di buono, devo andare nei canali alti saliva. C'è una scheda all'interno. Dai, andrò giù, butto mano al commutatore dei canali. Ma più funziona dove? Male. male, bisogna stare attenti toccando, quello che non mi chiamassa, cosa, adesso ne rumo io. Cos'era quello? È smontato su. Ricevevo, trasmettevo poi, non trasmettevo e non ricevevo. E cos'è che c'è da successo? Lo stavo avvitando, un casino. Mi è scappato cacciavite e pensato cacciavite dentro. E che casino che fatto? C'è il macchistino. Si è entrato a dritto e ha toccato qualche filo. E è andato in tilt. Pensato qualche filo l'ho messo a massa. Pure il soldato, lo anda, il mondo è solito, poverino. E infatti ho fatto domanda di pensione, ma ve lo chiedo la pensione, dico la domanda. Allo garraggio. C'è cosa da va, lasciarlo così e boh. A te io ti faccio buttare una base. È entrata all'armadio e boh. E questo ricambio si farà a Caliguro. Non mi sei, stai posto di istituto, dove sei bevi. Tanto non funziona più, non funziona ormai. Manco a pezzi siti. Ah, che pezzi siti, guarda. Ho creduto, la saputa, a maglio si viva la manopola. Io la via, che ce l'ha da. Le manopole ci sono, ma non so cosa andare a me. Sono manopole piccole. Io l'ho recuperata, delle piccole l'ho recuperata. Non so di cosa era, di qualche radio forse, non so. Poi ho un garascio, anche a lui si morirà già ci ha preso i tetti. Anche io ce li ho messi da una parte, ce li ho dentro un cassetto. Li ho messi da parte, li ho messi. Ma cioè, manopole, quelle che ti ho fatto vedere, quelle manopole come mi hai fatto vedere tu in garage. Come quelle ce li ho. Non conviene mai buttarli, ce l'ho sempre nel manopole. Adattare, fare. Perché certe volte, per la manopola devi comprare tutto il paladrano. Infatti, va bene, munizione a bassi, tanto non ti ha i bassi giù, diventare un garage. Quindi, a voglia, rimane così. Io faccio una scatola di cartoni vicino, abbastanza ampia, così la diventa pura. Infatti, bisogna fare così, bisogna fare così, sennò voi... Perché abbiamo la casa di Mondezza, e la Mondezza che si lavora a noi. Mi piace tutto, io che da lanci mi piace, anche di che faccio pulizia di ampo, fondo il tuo canto. Anche manopolina, anche cosa, qualche interruttorino, qualche cosa c'è sempre da recuperare, qualche diavolo. Il coso commutatore, dopo magari qua c'è la rotta, tu già vai e se lo prepara. Signor Bacchi, bisogna stare a cose, no? Mi ha dato un'esene cosa, fa un po' di pulizia, lascia tutto come che se no dopo non mi metto più in Buddha. Se no, prendi il segno, prendi il segno, tieni tutto in ordine. Niente giurai, commercianti di Sassari sono in tilt. Stazione sono. Mi si sono ribellendo, si sono. Stanno ribellando perché con questo Covid non sono guadagnando. No, hai ragione, non stanno guadagnando niente, stanno spendendo e basta. Perché con questo piatto di rubino si dice che non lo vado a uscire più qua. Non si può uscire, tutti così è così a montone. Infatti è così. Stiamo segnando anche sul virus, manco male da fine dicembre a gennaio ci saranno i cosi, i vaccini per questo virus. I vaccini stanno già distribuendo. Ma visto in Sardegna ieri ho ricevuto 124 che sono morti. Da quando è iniziata? Non si è complicato bene, sono iniziato ieri. Ah, che 124 da quando aveva iniziato era? Sì, non si stavo guardando il giornale e abito il mio giornale. Infatti è così. Ma chissà che non passi a, speriamo che passi a Tagosa, se no andremo male, andremo. Se male non si può andare. Se male non si può andare, male, male, male. Anda per nemmeno, no? Ci facciamo una parola. Venga, dai, siamo subito. Siamo subito, questo giusto stiamo mangiando, non si fa più. Bene Tore, ti saluto, ciao, saluto la signora, buona cena, buon tutto, a domani, se tutto va bene ce la richiamiamo ancora. Ok, ciao Tore, buonanotte. Ok, ciao Bacchi, ci risentiamo, buona carica e tutto. Ciao Bacchi. Ciao Tore, ciao ciao. Dun dun dun dun dun dun.